Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Ottava puntata. Ricordo le parole del re. Ricordo il suo sorriso quando vide Ernesto e il suo sguardo inquisitore quando vide Arturo. Ricordo la distanza che il re mise fra la sua persona e i suoi visitatori con un semplice gesto, quello di prendere i soldi ed infilarseli in tasca. Poi parlarono. Il re evocò due notti dentro a cui Ernesto si era immerso volontariamente e parlò degli obblighi contratti, degli obblighi che ogni azione, per gratuita o accidentale che sia, finisce per comportare. Parlò del cuore. Il cuore degli uomini, che sanguina come le donne, penso si riferisse alle mestruazioni, e che obbliga i veri uomini ad assumersi la responsabilità delle loro azioni, di qualunque genere esse siano. E parlò dei debiti. Non c'era niente di più spregevole di un debito saldato male. Ecco cosa disse. Non parlò di debiti non saldati, ma saldati male. Poi tacque e aspettò di sentire quello che avevano da dirgli i suoi visitatori. Il primo fu Ernesto San Epifanio. Disse che lui non aveva alcun debito con il re. Disse che l'unica cosa che aveva fatto era stata andarci a letto per due notti di seguito, due notti folli, precisò, sapendo probabilmente che si infilava nel letto del re dei finocchi, ma senza considerare i pericoli e le responsabilità a cui andava incontro con quel gesto, compiuto in totale innocenza. Anche se mentre pronunciava la parola innocenza, Ernesto non poté soffocare una risatina nervosa che forse smentiva la sua autogiustificazione. Guidato solo dal desiderio e dal gusto dell'avventura e non dal segreto disegno di diventare lo schiavo del re. «Tu sei il mio schiavo Finocchio», lo interruppe il re. «Sono io il tuo schiavo Finocchio», disse l'uomo o il ragazzo in fondo alla stanza. Aveva una voce acuta e dolente che mi fece trasalire. Il re si voltò e gli ordinò di stare zitto. «Io non sono il tuo schiavo Finocchio», disse Ernesto. Il re guardò Ernesto con un sorriso paziente e malevolo. Gli domandò chi credeva di essere. «Un poeta omosessuale messicano», disse Ernesto. «Un poeta omosessuale, un poeta, un...» Il re non capì. E poi aggiunse qualcosa sul diritto che aveva, un diritto inalienabile, di andare a letto con chi voleva senza per questo essere considerato uno schiavo. «Se non fosse tutto così patetico, morirei dal ridere», disse. «E allora muori pure dal ridere prima che ti diano una medaglia», ribatté il re. Di colpo la sua voce si era indurita. Ernesto arrossì. Io lo vedevo di profilo e notai che il labbro inferiore gli tremava. «Ti martirizzeremo», disse il re. «Ti pesteremo a sangue fino a farti crepare», disse il tesoriere del regno. «Ti scanneremo e ti appunteremo la medaglia direttamente sui polmoni, anzi, sul cuore», disse il re. La cosa strana però fu che dissero tutto senza muovere le labbra e senza che dalle loro bocche uscisse alcun suono. «Lasciami in pace», disse Ernesto con voce esangue. Il povero ragazzo subnormale in fondo alla stanza si mise a tremare e si tirò addosso una coperta. Poco dopo tutti sentimmo i suoi gemiti soffocati. Allora parlò Arturo. «Chi è?» disse. «Chi è chi, imbecille?» disse il re. «Quello là», disse Arturo e indicò il letto. Il tesoriere lanciò uno sguardo inquisitore in fondo alla stanza e poi fissò Arturo ed Ernesto con un sorriso vuoto. Il re non si voltò nemmeno. «Chi è?» ripeté Arturo. «Chi cazzo sei tu?» disse il re. Il ragazzo in fondo alla stanza tremò sotto la coperta, sembrava che si rigirasse, avviluppato o soffocato. Chi lo guardava non capiva più se aveva la testa vicino al cuscino o in fondo al letto. «È malato», disse Arturo. Non era una domanda e nemmeno un'affermazione. Fu come se lo dicesse a se stesso e fu, allo stesso tempo, come se si perdesse d'animo. E stranamente, quando in quel momento sentii la sua voce, invece di mettermi a pensare a cosa aveva detto o alla malattia di quel povero ragazzo, pensai che Arturo aveva recuperato e ancora non aveva perso l'accento cileno nel corso dei mesi che aveva passato nel suo paese. Subito dopo mi misi a riflettere su cosa sarebbe successo se io, supponiamo, fossi tornata a Montevideo. Avrei recuperato il mio accento? Avrei smesso a poco di essere la madre della poesia messicana? Io sono fatta così. Penso le cose più assurde e inopportune nei momenti peggiori. Perché quello era, senza dubbio, uno dei momenti peggiori, e arrivai a pensare che il re ci avrebbe ammazzato nella più assoluta impunità e avrebbe gettato i nostri cadaveri ai cani, i cani muti del quartiere Guerrero, se non qualcosa di peggio. Ma allora Arturo si schiarì la gola, o così mi parve, e si sedette su una sedia vuota davanti al re. Ma la sedia prima non c'era. E si coprì la faccia con le mani, come se gli girasse la testa o avesse paura di svenire. E il re e il tesoriere del regno lo guardarono con curiosità, come se non avessero mai visto uno sbruffone così languido in vita loro. E poi, senza togliersi le mani dal viso, Arturo disse che quella sera dovevano risolvere una volta per tutte i problemi di Ernesto San Epifanio. Dalla faccia del re sparì ogni sguardo di curiosità. Succede sempre così con gli sguardi di curiosità. Alla prima occasione tendono a diventare altro. Spariscono, ma non del tutto. Restano a metà strada. La curiosità è lunga. E anche se l'andata sembra corta, perché vi siamo predisposti, il ritorno si fa interminabile, un incubo infinito. E lo sguardo del re quella sera era il fedele riflesso di tutto questo. Un incubo infinito da cui avrebbe voluto scappare attraverso la violenza. Ma allora Arturo cominciò a parlare di altre cose. Parlò del ragazzo malato che tremava nel letto in fondo alla stanza e disse che anche lui sarebbe venuto via con noi. E parlò della morte e parlò del ragazzo che tremava, anche se ormai non tremava più, e che adesso faceva capolino, sollevando l'angolo della coperta, e ci guardava. E parlò ancora della morte, e si ripeté più volte, tornando sempre sulla morte, come per dire al re dei finocchi del quartiere Guerrero che sul tema della morte non aveva nessuna competenza. E in quel momento io pensai: sta facendo letteratura, sta raccontando storie, è tutto falso. E allora, come se Arturito Belano mi avesse letto nel pensiero, si voltò leggermente, appena un movimento di spalle, e mi disse: dammelo. E tese il palmo della mano destra. E io gli misi il mio coltello aperto sul palmo della mano destra e lui mi ringraziò voltandomi di nuovo la schiena. E allora il re gli domandò se era sbronzo. No, disse Arturo. O forse sì, ma non molto. E allora il re gli domandò se Ernesto era il suo amichetto e Arturo disse di sì, dimostrando chiaramente che sbronzo è zero, ma letteratura tanta. E allora il re volle alzarsi, forse per augurarci la buonanotte e accompagnarci alla porta, ma Arturo disse: non ti muovere, stronzo, che nessuno si muova, le mani sul tavolo, cazzo. E a sorpresa il re e il tesoriere gli obbedirono. Io credo che in quel momento Arturo si rese conto che aveva vinto, o almeno aveva vinto la prima metà dell'incontro o il primo round, e dovette anche rendersi conto che se il conflitto si prolungava poteva ancora perdere. Cioè, se l'incontro era a due round, le sue possibilità erano enormi. Ma se l'incontro era a 10 o a 12 o a 15 round, le sue possibilità si perdevano nell'immensità del regno. Perciò tirò dritto e disse a Ernesto di andare a vedere il ragazzo in fondo alla stanza, ed Ernesto lo guardò di rimando come a dire: non spingerti troppo oltre, amico, ma dato che non era il caso di mettersi a discutere, obbedì. E dal fondo della stanza Ernesto disse che il ragazzino era più di là che di qua. Io lo vedi bene, Ernesto, lo vidi avvicinarsi tracciando un semicerchio nella camera reale fino a raggiungere il letto e scoprire il giovane schiavo e toccarlo, o forse dargli un pizzicotto sul braccio e sussurrargli qualcosa all'orecchio e avvicinare l'orecchio alle labbra del ragazzo e poi ingoiare la saliva. Lo vidi ingoiare la saliva chino su quel letto che aveva al tempo stesso l'aria di una palude e di un deserto, e poi dire che era più di là che di qua. «Se questo ragazzino ci muore, torno e ti ammazzo», disse Arturo. Allora io aprii bocca per la prima volta in tutta la serata. «Ce lo portiamo via?» domandai. «Sì, viene con noi», disse Arturo. Ed Ernesto, che era ancora in fondo alla stanza, si sedette sul letto, come se di colpo si sentisse terribilmente abbattuto, e disse: «Vieni a vederlo anche tu, Arturo». E io vidi Arturo scuotere la testa più volte. Non voleva vederlo. E allora guardai Ernesto e per un attimo mi parve che il fondo della stanza, con il letto come una vela abbattuta al suolo, si staccasse dal resto della camera, si allontanasse dall'Hotel Trifoglio navigando su un lago che a sua volta navigava in un cielo chiarissimo, uno dei cieli della Valle del Messico dipinti dal dottor Atle. La visione fu così nitida che ci mancò soltanto che Arturo e io ci alzassimo in piedi e lo salutassimo con la mano. Ed Ernesto non mi parve mai coraggioso come allora. È a modo suo anche il ragazzo malato. Io mi mossi prima mentalmente, poi fisicamente. Mi avvicinai. Il ragazzo malato mi guardava negli occhi e si mise a piangere. In effetti stava molto male, ma io preferii non dirlo ad Arturo. «Dove sono i suoi pantaloni?» chiese Arturo. «Lì da qualche parte», rispose il re. Cercai sotto il letto, non c'era nulla. Cercai ai lati. Guardai Arturo come a dire: «Non li trovo, che facciamo?» Allora a Ernesto venne in mente di cercarli fra le coperte e infatti tirò fuori un paio di pantaloni mezzo bagnati e delle scarpe da tennis di marca. «Lascia fare a me», gli dissi. Feci sedere il ragazzo sul bordo, gli infilai i blue jeans e le scarpe. Poi lo misi in piedi per vedere se riusciva a camminare. Ci riusciva. «Andiamo», dissi. Arturo non si mosse. «Svegliati, Arturo», pensai. «Voglio raccontare un'ultima storia a Sua Maestà», disse lui. «Voi andate avanti e aspettatemi sul portone». Io e Ernesto facemmo scendere il ragazzo. Fermammo un taxi e ci mettemmo ad aspettare davanti all'entrata dell'Hotel Trifoglio. Dopo poco arrivò Arturo. Nella mia memoria, quella sera, in cui non successe nulla ma sarebbe potuto succedere di tutto, scompare come divorata da un animale gigantesco. A volte vedo in lontananza, verso nord, una grande tempesta elettrica che avanza su Città del Messico. Ma la mia memoria mi dice che non ci fu nessuna tempesta. L'alto cielo messicano divenne un po' più basso, questo sì. A tratti si faceva fatica a respirare. L'aria era secca, irritava la gola. Ricordo le risate di Ernesto San Epifanio e le risate di Arturo Belano dentro il taxi. Risate che li riportavano alla realtà, o quello che loro preferivano chiamare realtà. E ricordo l'aria sul marciapiede dell'albergo e all'interno del taxi, come fatta di cactus, di tutta l'infinita varietà di cactus di questo paese. E ricordo che dissi: «Si fatica a respirare, e ridammi il coltello, e si fatica a parlare, e dove andiamo?» E ricordo che ogni mia parola Ernesto e Arturo si mettevano a ridere. E finii anch'io per scoppiare a ridere, quanto o più di loro. Ridevamo tutti, tranne il tassista, che a un certo punto ci guardò come se per tutta la notte non avesse fatto altro che caricare gente come noi, il che, d'altra parte, trattandosi di Città del Messico, era perfettamente normale. E tranne il ragazzo malato, che si addormentò con la testa sulla mia spalla. E fu così che entrammo e poi uscimmo dal regno del re dei finocchi, che era un enclave nel deserto del quartiere Guerrero. Ernesto San Epifanio, 20 o 19 anni, poeta omosessuale nato in Messico, miglior poeta della sua generazione insieme a Ulysses Lima, che ancora non conoscevamo. Arturo Belano, 20 anni, poeta eterosessuale nato in Cile. Juan de Dios Montes, detto anche Juan de Dos Montes e Juan de Dos, 18 anni, garzone in un panificio del quartiere Buenavista, in apparenza bisessuale, e io, Auxilio Lacouture, di età definitivamente indefinita, lettrice e madre, nata in Uruguay o Repubblica Orientale, nonché testimone delle reticolazioni dell'aridità. E siccome di Juan de Dos Montes non parlerò più, posso almeno dirvi che il suo incubo finì bene. Per qualche giorno visse a casa dei genitori di Arturito e poi girò diverse camere in affitto. Alla fine certi amici e io gli trovammo un lavoretto in una panetteria del quartiere Roma e scomparve, almeno esteriormente, dalle nostre vite. Gli piaceva drogarsi, inalando colla. Era malinconico e un po' triste. Era stoico. Una volta lo incontrai per caso al Parque Hundido. Gli dissi: come stai, Juan de Dios? Alla grande, mi rispose. Mesi dopo, alla festa che fece Ernesto San Epifanio quando vinse la borsa di studio Salvador Novo, festa a cui Arturo non andò, perché i poeti litigano spesso, dissi a Ernesto che quella sera, ormai quasi dimenticata, non era lui, come tutti pensavamo, che intendevano uccidere, ma Juan de Dios. Sì, disse lui, sono arrivato anch'io alla stessa conclusione. Sarebbe stato Juan de Dios a morire. Il nostro disegno segreto era stato evitare che lo ammazzassero.